Diretta del sabato sera. In studio c'è Master Nick e siamo in attesa dei collegamenti live con le sale e i DJ del ristorante Convento. Buon ascolto. Ed eccoci qui, buonasera, buonanotte a tutti. Sabato 14 luglio 2018, il primo esperimento social contro social della storia del mondo, perché siamo in diretta radio ma contemporaneamente in diretta Facebook sul nostro sito e pagina Convento di Nonato. Quindi facciamo anche un saluto, voi non ci state vedendo ma fidatevi delle nostre voci e delle nostre della nostra parola, diciamo così. Lei che è già stata qui, confermi? Esatto, che lei è là. E la, non ti preoccupare, non è importante, esatto, lei è la veterana, anche lei è stata qui, quindi la loro parola vale oro. E soprattutto festeggiamo, quindi a parte bere, che lei continua a bere da 45 minuti e dopo non voglio, ho molta paura di da dove uscirà tutto questo, perché ovviamente saranno litri e litri di pipì da qui all'eternità. E no, dicevo che sei protagonista del primo esperimento social su social della storia, perché noi stiamo parlando a un telefonino che non ci sente, perché non stanno sentendo quello che diciamo, ma che ci riprende, e che solo qui ci stanno sentendo ma non ci vedono. Quindi è una sorta di conflitti, è un gioco di sensi, è un gioco sensoriale mai provato prima d'ora, e tu devi essere orgogliosa e fiera di essere la prima e la capostipite di questo progetto. Allora dai, come ti chiami? Allora, io sono Sara. Hanno inventato dei microfoni che servono per amplificare la voce. Se tu ne parli a me è bellissimo, perché possiamo parlarne quanto vuoi, ma nessuno ti sente. È lontanissimo questo microfono. Ora va meglio, vedi che te lo sai. Sara, benvenuta Sara. Grazie. Allora, Sara, dovete sapere che ha una vita geografica pari a quella di Alberto Angela, e quindi adesso dovremo un attimo districare i fili della sua storia. Sara, da dove vieni? Allora, io sono nata a Novi Ligure. Non partire dalla nascita, che poi è un casino, che poi ti sei trasferita a 4 anni, a 8 sei tornata, a 10... A Pastorana, sono residenza pastorana e domiciliata a Novi Ligure. Domiciliata a Novi Ligure, molto bene, quindi per la finanza, se dovete fare dei controlli, queste sono le indicazioni per trovare la nostra Sara. E cosa stai festeggiando questa sera, al di là del fatto che hai ritrovato la voglia di bere, a quanto sembra, che avevi perso da 15 anni almeno, perché veramente sta bevendo, che, cioè, nel senso, i cammelli sono in sciopero da quanto Sara sta bevendo al posto loro. E cosa stai festeggiando con noi stasera? Sto festeggiando il mio... Vale sempre la regola di prima, che i microfoni non sono spariti. Sto festeggiando adesso il mio annubilato. Oh, il tuo addio annubilato. Quando ti sposerai? 1 settembre 2018. Oh, bene, oh. Bene. Chi è il fortunato? Emanuele Gualco. Addirittura, anche il cognome. Cioè, vedete, sta dando dettagli, da dettagli a chiunque. Dettagli, perché almeno... Esatto, almeno le... Tutto, come bene. Si dice, le parole rimangono scritte nel, da qualche parte, che insomma, esatto, carta canta. E Emanuele ha una storia geografica interessante come la tua, o un pochino più scontata? No, una storia geografica interessantissima. Che ci vuoi riassumere o troppo? Rapidamente. Vai, provaci. Nato, cresciuto. Lei già si vergogna di quello che dirai, ancora no, non lo sappiamo. Poi è stata a vivere un po' a Genova, così, adesso vive con me. Questa magari se l'è anche scelta, cioè, nel senso, certo, non è che le è capitata, no, o ha perso una scommessa, o no, l'ha scelta. Questo non lo so, il pregresso non lo so, però poi alla fine se l'è scelta. Esatto, quindi cioè, da qualche parte dovrà essere contento, per qualche motivo, esatto, dovrà essere contento. Io penso che non sia tanto in grado di intendere volere, però sì. Perché state festeggiando contemporaneamente? Sì. Ah, ok. No, in posti molto differenti, però sì, beh, però dico contemporaneamente, esatto, nello stesso momento. Quindi sicuramente. Beh, quello. E tu dov'è? Sai dov'è? Penso in Valle d'Aosta. Penso in Valle d'Aosta, ma a fare tipo quelle cose rafting, no? Sì. Hai visto? Vabbè, roba. Ma ragazzi, non è che qui siamo gli ultimi arrivati, quello è. Quindi quanti sono? Un bel gruppo saranno, immagino. Ma io non so nulla. Non sai nulla, lo sai che, magari che, loro ne stanno. Che è in Val d'Aosta, tu sai che è in Val d'Aosta, e quello ti deve bastare. Ok. Ma basta, sì, non voglio sapere nient'altro. Ah sì, non deve, tanto torna, cioè, nel senso, torna comunque a casa. Quindi sempre lì deve tornare. Sempre lì deve tornare. Ecco, l'unica cosa un po' brutta di questo matrimonio è quanto gli costerà in bolletta dell'acqua e in bottiglie a Emanuele questa ragazza, perché a quanto di sembra acqua di acqua, insomma, vive di acqua, e quindi insomma, nell'agenda delle spese la voce acqua è importante, interessante, mentre nel frattempo lei si abbevera come se ancora non l'avesse fatto abbastanza. E no, tutto questo perché io tra l'altro devo occupare questo silenzio, no? E quindi devo dire stupidate per darti modo di bere. Esatto, darti modo di bere. No, io finito. Sì, è finito per i prossimi 4 secondi. Ci rivediamo tra 6. Ok, ok. Allora, raccontaci anche un po' chi ti accompagna, così diamo anche, insomma, voce e risalto alle tue amiche. Ricominciamo, allora. Perché ricominciamo? Le hai già presentate? Le ho già presentate tutte almeno una volta, ma io le rifaccio volentieri. Ma lo devi fare, assolutamente. Ma le hai presentate a ragazzi di un certo tipo o...? Ma guarda, qua in questo momento le presento a tutto il mondo. A tutto il mondo, in generale, è una persona buona, una persona di cuore, la Sara che vi presenta a tutto il mondo. Ovviamente solo ai migliori. Solo ai migliori, quindi pensate, lei considera tutto il mondo i migliori. Questo per farvi capire il livello. Apposta. Sì, appostissimo, appostissimo. Dai, vai, vai, vai. Allora, iniziamo. Cioè, esatto. Solo a dire iniziamo ha perso tutte le energie che aveva. Io guarda, fossi in te per recuperare energie berrei un po'. Fuori fanno secondo me gialli addirittura. Addirittura cartellini gialli. Tutto. Nelle tue parole allora, sono. Abbiamo Miranda. Con che? Cioè, l'ha tirato fuori dalle budella proprio questa energia per dire Miranda, quindi diciamo che devi esserne orgogliosa. Molto orgogliosa. Miranda, molto bene. Ha un talento. Tirano fuori il rosso. Addirittura rosso. Ma secondo me stanno ispirando i vostri vestiti in qualche modo, per quello che stanno richiamando i colori dei vostri vestiti. Ok, quindi Miranda. Ma ancora non lo sapevo, cioè si accorta adesso che ti hanno scritto il biaccio. Diciamo che secondo me te lo sarai scritto almeno da 40 minuti. No, te lo avranno scritto almeno da 40 minuti, te ne sei accorta adesso. Sì, ma anche noi, tranquilli. No, è l'aria così. Tra l'altro, in tutte queste cose sono le 4 del mattino e siamo fermi a Miranda. E ne mancano altre 12. Abbiamo Valentina. Valentina, che è quella signora in rosso. La signora in rosso. No, è perché riprendere. Perché arriva la signora in giallo e la signora in blu. Ah, ok, va bene. E poi facciamo i colori primari, seconda, tutti gli incroci e poi la tavolozza. Sara, quella brava col microfono. C'è questa leggenda che sta già girando da qualche minuto di questa Sara brava col microfono. Leggenda, poi te la farei raccontare. Ma perché sei cantante? Tutte le leggende poi hanno una base. Hanno un fondo di verità. Tu confermi o smentisci? Conferma. Smentisce aspramente. Bene. Conferma tutto. Beh, quello l'hai deciso tu che conferma, perché a me non sembra. Poi abbiamo Alessia. Alessia, ok. Alessia. Che è la signora in giallo? La signora in giallo sempre. Non si cambia mai? No, è sempre giallo. Che cammina da solo quel vestito giallo. Ok. È il colore più bello del mondo. Sì. Diciamo che è un armadio interessante, l'armadio di Cinzia, diciamo che è molto variopinto. Molto variopinto. Tra l'altro non penso che sia così facile trovare cose gialle in giro. D'inverno. Sì, anche d'inverno, esatto. Ma lei ce la fa. Sì, va di brutto. Lei ce la fa. Solo negozi selezionati, sì, lei sa dove andare. Probabilmente glieli fanno proprio su misura. Oppure li vernicia con la bomboletta a casa. Cioè li compra e poi se li vernicia a casa da sola. E ultima ma non ultima, prima che si addormenti. Interessatissima alla vostra festa. Che è una voglia di festeggiare che le sta uscendo proprio dalle orecchie. Cioè una voglia che le esce dalle orecchie di fare festa. Federica, la signora in blu per completare. E la signora, d'altronde è quel colore, dovevi prenderti. Allora, tutte amiche, qualche collega magari, parente? Amiche, c'è qualcun altro che è rimasto fuori o? Le avete portate tutte. Ok, nel frattempo io prendo un po' di tempo perché lei sta nuovamente bevendo. Salutiamo la Silvia a casa. Ah, sì. Salutala, è giusto salutarla, sì. Saluto anche Silvia. Cosa ti ha fatto la Silvia? Mamma mia. Un momento di c'è proprio, si è spenta la luce. Non ha preso bene la non partecipazione a questo addio. Cerca di dire tra le righe. Ho capito. Allora, cercato di non partecipo salutandola. Ho capito. Va bene, ma noi siamo positivi, siamo festaioli e quindi parliamo solo di cose belle e solo sempre cose belle. Solo sempre cose belle, così. No, pensavo che lui non fa, ma lui non fa parte delle cose belle, quindi non ne, infatti, non ne possiamo. Attenzione, pollice giù, pollice addirittura, pollice giù da fatto. Bellissimo. Lei, pollice giù. Adesso te lo, adesso te lo, non te lo schiodi più. Anche secondo me. Adesso fino alle 4:30 del mattino non, lo, non te lo molli più. Al numero 8, se ti può interessare. Me lo ricorderò. Te lo ricorderai, te lo ricorderai. Nome. Assolutamente. Allora, ragazze, volete fare un saluto? Volete dire qualcosa? Prima intanto che lei beve? Dai, qualcosa, ragazze. Il microfono continua a rimanere lì. Bravo, mi piace che lei mi aiuta in questa, in questo messaggio di sensibilizzazione del pubblico. Ma io sono davanti al microfono. Certo, no, ma stai andando fortissimo, non ti preoccupare, sei fortissima. Mi impegno, Volete dire qualcosa? Mi sto applicando un sacco. No, ma sei in forma. Bellissimo. Oh, brava, mi fa piacere, anche perché, anzi, aspetta, tra l'altro ti ringrazio per questo bellissimo... No, ne ho messo. Eccoli qua, ti ringrazio per questo bellissimo complimento che viene dal cuore. Ecco qua. Bene. Ok, così abbiamo saldato. Molto bene. Ti ringrazio, mi fa piacere, mi fa piacere. Ma secondo te non andiamo in giro con i soldi falsi? Cambi in banca, stai tranquillo. No, se li porto in banca questi non me li cambi. Che ne so, li ho trovati per terra. Cioè tu stampi soldi falsi con i bambini? Ma sono 72 reati uno dietro l'altro. I bambini le chiedono. Tra l'altro qualcuno ci ha spento la luce, non abbiamo pagato le bollette. E ho provato a scannerizzarli, non si scannerizzavano. Non so, che era proprio... Beh. Belandi, ragazzi. Beh. Allora. Tra l'altro, cioè nel senso, ha battuto un record la Cinzia, ha detto 4 parole e ha beccato 50 anni di galera in 4 parole. È un record mondiale, cioè non è mai successo che una riuscisse... Ha confessato, esatto. Allora ragazzi, sono fatti malissimo, No, però allora io ti dico, i bambini la bevono. Quelle di e non solo i bambini, perché me la sono giocata con la titolare dicendole guarda, dei ragazzi mi hanno pagato il tavolo e voleva prendere i soldi, quindi non c'è nemmeno accorto. No, io ci ho giocato dentro. No, io ci ho giocato, io ho giocato. Non era vero, non era vero. Guarda, però per il nome della nostra amicizia, visto che è tipo la 26esima volta che torni, ti regalo i miei. Sono tipo 600 euro. Guarda Cinzia. Sono 500-600 euro. Quelli te li puoi giocare. Non porto in banca più cose del mio. Per tutti i bambini. Quelli te li puoi giocare. Quelli te le puoi giocare bene. Pensa che quella erano le mie ferie estive e niente, quindi starò a casa tristemente per il 95esimo anno consecutivo. Io speravo che quelli dell'albergo li prendessero, niente. Allora, visto che esatto, no, ma Cinzia prende tutto, anche se non sono gialli purtroppo, ma le prende comunque. E dicevo, visto che voi non volete dire niente, volevo farle dire qualcosa, ma sta bevendo di nuovo, e facciamo dire qualcosa a Sara, facciamo salutare, mandare un messaggio d'amore, di pace, un messaggio importante. No, i messaggi d'amore. Allora di quello che ti viene in mente, dai. Di pure quello che vuoi. Allora solo grazie alle mie amiche. Oh, ci sta. Avete progetti, programmi per domani o ancora da vedere? Non li posso sapere. Io non so niente. Ah, ok, allora c'è. Dici che non andiamo in una spiaggia. Ah, sì, devo andare in una spiaggia naturista perché oggi siamo stati a Caneva World. Sì. E abbiamo preso il sole, è bellissimo. Sì, sì, molto consigliato. Con un costume, con delle spalline un po' larghe, e mi hanno detto che per domani, dal momento che poi per il matrimonio devo togliere il segno, dobbiamo andare in una spiaggia naturista, quindi... Ah, è tutto pianificato, è tutto pianificato, ok. Da qualche parte, non so dove. Beh, bene, insomma, almeno lo sai già, ti prepari psicologicamente, sei tranquilla. Quello importante è che fate riposare la signora in blu, perché mi sembra provatissima, quindi la prima cosa da fare per il tuo dio nubilato è farla riposare, poi pensate al resto. Ah, ok, deve recuperare. Il peso del matrimonio. Sì, sì. Beh, diciamo che è un buon esempio da un buon messaggio. Sì, brava. Bello. Grazie, mi fa piacere che tu sia tornata in vesti ufficiali e non ufficiose, e quindi niente, è un buon spot per il matrimonio. Quando tu hai dei dubbi sullo sposarti o meno, guarda la sua faccia. No, ma non c'è bisogno, senza parlare, tu basta che guardi la sua faccia e le sue occhiaie e sei a posto. Ti fa capire quanta gioia c'è. Ti fa capire quanta gioia c'è. Scappo? No, no, puoi decidere tu. Puoi decidere tu. Allora, intanto ringraziamo la Sara che è riuscita in un'altra impresa. Abbiamo battuto vari record in questi minuti, i record di più alti reati con meno numero di parole possibili, e anche una mezzo litro d'acqua bevuto in 45 secondi. E per cui siamo felici che il Guinness World Record verrà a certificare questa intervista. Il momento più bello della serata, ho bevuto bene mezzo litro. Pensa che ricordi, ragazze, voi vi siete fatte un culo quadro per organizzare tutto e l'unica cosa che ricorderà è aver bevuto dell'acqua. Quasi, Porta, cos'è? Un lager nazista, non è una festa? Acqua, ah, ok. So, mi, cioè, sembrava veramente un qualcosa di nazista. Allora, grazie ancora e buona fine serata. In bocca al lupo per intanto il suo matrimonio e per quello che succederà domani, qualsiasi cosa sia. Nel caso sentiate al telegiornale di denunce per ragazze nude su qualche spiaggia del Lago di Garda, sapete a chi rivolgervi e sapete di chi è colpa e soprattutto della Sara. Va bene, allora grazie ancora e buonanotte, buon divertimento. Ciao ragazze! Ciao! State ascoltando Ristoradio Convento.